una strana nostalgia, pronta a farmi compagnia. E resteranno quei ricordi che non cambieranno mai. Ci saranno quegli odori che per sempre sentirai, ricercando nuovi amori per dimenticare poi tutto quello che ora è andato ormai, ma sempre proverai. Una strana nostalgia, una strana nostalgia, da quando sei andata via, ora che sei andata via. C'è una strana nostalgia, oh che strana nostalgia, pronta a farmi compagnia, vieni a farmi compagnia. E vieni qui dai, non ti preoccupare, ora che sono abituato non puoi farmi male. Ma vieni qui dai, di cosa hai paura? Anche se sono più lontano non è meno dura. Vuoi rimanere un altro po' per farmi compagnia? Ne fumiamo un'altra insieme e dopo vado via. Che cosa importa poi alla fine, quel che è fatto? Approfitta adesso che l'orgoglio mi è distratto. I miei rimpianti pesano, i miei ricordi remano per scappare a questo mare, ma comunque annegano le mie frustrazioni, tutte le illusioni perse per vedere se diventano emozioni. E resto perso nei pensieri, niente come ieri, mentre percorro con la mente tutti i miei sentieri. E se guardo anche nel buio adesso vedo te, aspettando un nuovo sole adesso penso che... È una strana nostalgia, è una strana nostalgia, da quando sei andata via, da quando sei andata via. C'è una strana nostalgia, c'è una strana nostalgia, pronta a farmi compagnia, pronta a farmi compagnia. Ma non era colpa mia, e davanti ai desideri tuoi dolori, non era colpa mia, ogni vita porta dentro i propri errori. E non era colpa mia, ed ognuno cerca di venirne fuori. No, non era colpa mia. Siamo anime con diversi cuori, ma saranno nuovi amori che ti aiuteranno poi. Ci saranno nuovi soli per quando non splenderai, ripercorrendo gli errori che adesso capirai, fino a quando sarai pronto per dimenticare poi. Quella strana nostalgia, quella strana nostalgia, quella strana nostalgia, quella strana nostalgia, quella strana nostalgia, quella strana nostalgia, e che strana nostalgia, e che strana nostalgia.